L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenute e benvenuti a Darwin. Questa puntata inizia con un grande urlo, famosissimo. Il celeberrimo urlo di Munch, il celebre quadro di Edvard Munch realizzato nel 1910 che ha anche ispirato la famosa emoticon, quella lì con le mani disperate sul volto, ecco, che tutti abbiamo usato in simbolo di disperazione. Perché ne parliamo? Perché il celebre dipinto sta subendo, ovviamente a causa del tempo, degli scolorimenti sulle parti gialle, il cosiddetto giallo di cadmio. Adesso entreremo nel dettaglio e capiremo perché si sta scolorendo. Ovviamente i ricercatori di tutto il mondo si sono preoccupati e sono corsi in aiuto, e tra questi anche il CNR italiano. Infatti è qui con noi Costanza Migliani. Intanto benvenuta, dottoressa. Benvenuta. Salve, grazie dell'invito. Saluto tutti ascoltatrici ed ascoltatori. Lei è direttrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR ed è anche direttrice di un laboratorio mobile che si chiama MOLAB, che è proprio corsa in aiuto per evitare lo scolorimento di questo giallo. Dovuto a che cosa? I dipinti di questo periodo storico, sia dei fine 800, primi del 900, risentono spesso di variazioni di colore che osserviamo negli anni, perché c'è stata in quel tempo, sappiamo, la rivoluzione industriale e l'entrata in commercio di nuovi materiali, nuovi colori che non erano testati e al contempo con bellissimo colore molto intenso. Quindi molti dei pittori di questo periodo hanno utilizzato nuovi materiali. Questi nuovi materiali adesso ci accorgiamo che sono soggetti a variazioni di colore. Nel caso specifico dell'urlo di Munch, il problema è relativo a una classe di pigmenti che sono i solfuri di cadmio. Ma allora che giallo avrebbe dovuto usare al posto del cadmio? Prima che cosa usavano? Allora, gialli che sono tradizionali e storici sono ad esempio l'antimoniato di piombo, che fu scoperto in epoca rinascimentale anche prima ed è utilizzato nella ceramica innanzitutto, ma anche nella pittura su tavola e tela. Molti di questi pigmenti è giusto che fossero utilizzati, siamo noi a dover mettere in atto delle giuste condizioni conservative. Il fatto che scolorino, a cosa è dovuto? Dipende davvero dalla chimica dei materiali. Per il solfuro di cadmio utilizzato da Munch nel suo dipinto e in altri, abbiamo scoperto che il problema è relativo a residui di sintesi che sono dentro il materiale, quindi dentro nel tubetto a base di cloro, e l'azione catalizzante dell'umidità ambientale, mentre la luce ha un effetto minoritario. E come siete giunti a questa conclusione? Allora, quello che proponiamo come gruppo di ricerca, la cui leadership è italiana, è un approccio integrato in cui vale sia l'approccio non invasivo che è portato appunto dal laboratorio MOLAB che prima ha citato. Questa task force italiana è andata nel museo di Munch per studiare il problema, quindi si fa una prima mappatura di quelli che sono i materiali e il loro stato di conservazione direttamente nell'opera. Poi, in alcuni casi, per risolvere problemi di questo tipo, che sono abbastanza complicati dal punto di vista di scienza dei materiali, è necessario prendere dei campioni. C'erano già dei campioni che in passato erano presi. La storia, diciamo, della diagnostica per i beni culturali è tale che oggi si tende a non campionare le opere d'arte, mentre nel tempo erano già presenti nella database, diciamo, del Munch Museum dei campioni, e questi sono stati analizzati con tecniche di assoluta avanguardia che sono quelle del sincrotrone Grenoble ESRF. E quindi, diciamo, questa combinazione non invasivo su larga scala e il dettaglio finissimo dei campioni ha permesso di fare delle ipotesi che poi sono state controllate, validate e ottimizzate lavorando su modelli. Questa è un'altra cosa che proponiamo noi. Che vuol dire? È un modo con cui possiamo riprodurre la chimica e le condizioni del dipinto, riprodurlo e con materiali simili a quelli originali. Abbiamo avuto qua l'opportunità di usare dei tubetti proprio nella collezione del Munk Museum, e quindi abbiamo riprodotto in piccolissime stesure pittoriche veramente quello che è il quadro. Abbiamo sottoposti questi modelli ad invecchiamento accelerato, e quindi possiamo prevedere quello che può succedere ancora negli anni e capire anche come evitare che ci sia un ulteriore degrado del dipinto. Senta, ma il problema umidità è anche dato da tutto il pubblico che va davanti al quadro e dice «Oh, che bello!» e dal fiato gli esce un sacco di goccioline umide. Anche questo, no, diventa un problema? Direi che è un po' una semplificazione, no? Perché il museo, tutti i musei, soprattutto un museo così importante, ha un sistema di condizionamento. I quadri spesso sono protetti da teche o vetri, quindi non si tratta proprio del turista che va a litare. Certamente il turista e il numero dei turisti che entrano in un museo va a cambiare le condizioni igrotermiche, e quindi deve essere messo a punto un sistema di controllo ambientale opportuno che eviti delle variazioni. Grazie davvero Migliani, davvero buona ricerca e buon lavoro per i prossimi lavori. Grazie, io ringrazio tutti i collaboratori in Italia e all'estero. Ma non è che inizierà anche a sciogliersi il rosso? Beh, speriamo di no, qui il problema era il giallo, adesso hanno trovato la soluzione sul giallo, e lì il blu, il rosso, state fermi, eh? Il rosso ce n'è un sacco. Ciao Chiara! Ciao Federico, alla prossima! Un saluto a tutti, a tutte! Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.